Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, ultima puntata della settimana e come vi avevo preannunciato ieri, oggi ci occupiamo di mercati finanziari, lo facciamo spesso nella nostra trasmissione anche perché è un tema che interessa molto chi di voi sta cercando di capire come poter così organizzare un po' il proprio risparmio in prospettiva, visto che non facciamo altro che parlare di mercati che vivono in una fase di estrema incertezza. Sono state giornate le ultime piuttosto interessanti, anche la settimana che si chiude oggi non ha fatto che presentare notizie che ancora, come dicevo, alimentano una certa incertezza, se così si può dire, e molti risparmiatori ancora non hanno un quadro di riferimento chiaro, ma è probabile che questo quadro rimanga opaco ancora per diverso tempo, almeno fino a quando il sentiero generale della ripresa economica non sarà un po' più netto di adesso. Noi siamo abituati peraltro a parlare molto spesso di Stati Uniti perché quello è il driver, il riferimento importante, ma ci sono anche altre economie che naturalmente stanno dettando sempre più legge e viviamo anche un contesto, una condizione europea in questo momento, come sapete, molto delicato. Dopo il salvataggio greco dello scorso maggio, oggi l'attenzione è focalizzata sull'Irlanda, ne abbiamo parlato tanto negli ultimi giorni, alle prese con un vero e proprio tracollo bancario, è stato formalizzato nelle ultime giornate quanto servirà a salvare la Anglo-Irish Bank, lo Stato dovrà mettere sul piatto qualcosa come 34 miliardi di euro. E poi c'è anche l'altra delicata situazione europea, quella che sta vivendo la Spagna, che ieri ha perso la tripla A, se per qualcuno ancora il giudizio delle agenzie di rating conta, ma ci sono anche tanti altri temi, le valute in tensione, lo yen forte, inarrestabile con questo governo, quello giapponese che non si sa quanto abbia una concreta e reale intenzione di frenare appunto la corsa di questa divisa, lo yuan che la Cina non vuole rivalutare, il dollaro che continua a perdere colpi sull'euro, oggi l'euro ha scavalcato 1,37 proprio sul biglietto verde. E tra l'altro questa debolezza del dollaro, come sapete, sta continuando a portare verso l'alto le materie prime. Stamattina abbiamo due top: il petrolio sui mercati asiatici a $80 al barile e poi il nuovo top dell'oro che ha superato a New York i $1,319 l'oncia. E allora queste sono notizie di queste ultime ore, ma le settimane procedono così da mesi, in certe giornate buone notizie che danno una spinta al mercato, poi il giorno dopo ne arrivano di pessime e il mercato ritorna a scendere. E insomma, questo è lo scenario macroeconomico e finanziario con il quale siamo mai abituati a confrontarci da mesi, da anni potrei dire. Dove stiamo andando? Stamattina abbiamo interpellato una persona che riteniamo assolutamente estremamente autorevole per questi commenti. Io ringrazio e saluto, lo abbiamo disturbato a Londra questa mattina, il dottor Andrea Viganò, responsabile di BlackRock per l'Italia. Dottor Viganò, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Grazie a lei. Allora, io tanto per inquadrare un po' la società della quale stiamo parlando, BlackRock è la società leader mondiale negli investimenti, a giugno scorso gestiva un patrimonio che valeva qualcosa come 3.150 miliardi di dollari. Peraltro, proprio questa settimana, uno degli esponenti più autorevoli di questo gruppo, oltre che una delle personalità più autorevoli e più ascoltate di Wall Street, è stato in Italia. Sto parlando di Peter Fischer, che è il vicepresidente del gruppo ed è stato peraltro anche ex sottosegretario al tesoro americano nell'amministrazione durante l'amministrazione Bush, è stato per 15 anni membro della Federal Reserve, quindi potete capire che quando questa personalità parla dei commenti che non possono essere trascurati. Noi ne abbiamo raccolti alcuni, poi vi farò sentire qualche brano di questa intervista che abbiamo fatto a Mr. Fischer appunto martedì scorso e naturalmente anche prenderemo questi spunti per commentarli ulteriormente con il dottor Viganò. Ovviamente oltre allo scenario generale di mercato ci piacerebbe anche un po' commentare la situazione italiana, dove sta andando il risparmio delle famiglie italiane, quali sono i trend, insomma, se ce ne sono di interessanti che questo gruppo sta intercettando, perché ci piacerebbe capire se ancora le famiglie stanno mantenendo il proprio risparmio fermo, liquido, o se stanno cominciando a, come dire, organizzarlo, piazzarlo su qualche asset. Quindi anche questi, insomma, sono temi che ci piacerebbe affrontare non solo con Andrea Viganò ma anche con il vostro contributo all'800240024 per i commenti e le considerazioni e le domande in diretta, oppure al 349 238 6666 se volete mandarci dei messaggi. E prima di cominciare la chiacchierata con Andrea Viganò, uno sguardo, tra l'altro i temi di stamattina praticamente ve li ho già preannunciati tutti, ma la borsa oggi è positiva, non si preoccupa dell'euro forte, non si preoccupa del nuovo top dell'oro e viaggia positiva la borsa stamattina in Europa perché comunque continua a beneficiare dei nuovi dati economici americani positivi che sono arrivati ieri. Il prodotto interno lordo del secondo trimestre confermato al rialzo in un dato migliore delle attese, i sussidi di disoccupazione un po' più sotto controllo e quindi stamattina Parigi più 0,7%, Francoforte più 0,8%, Londra più 0,8% e Milano più 0,40%. A Milano oggi teniamo sotto osservazione i titoli del cemento che stanno andando molto bene, di nuovo tutti, Italcementi e Buzzi, Italcementi più 2, Buzzi più 1,55%, bene i petroliferi perché come vi ho detto il greggio quota sugli $80, questo stamattina è stato un top toccato sui mercati asiatici, Saipem più 1,97, Eni più 1,52. Abbiamo parlato ampiamente di Unicredit nel corso del giornale radio, oggi il titolo è tranquillo a Piazza Affari, per la verità adesso è leggermente negativo, meno 0,11%, ma tra qualche minuto il nuovo amministratore delegato Federico Ghizzoni si presenterà appunto alla stampa. Il titolo era partito bene, stamattina guadagnava un punto, ha poi perso smalto nel corso della mattinata. I peggiori, Azimut meno 0,9%, Bulgari meno 0,6%. Sull'euro vi ho già detto, ma insomma continueremo a monitorare questa giornata anche magari nel corso della nostra chiacchierata con Andrea Viganò. Allora io comincio subito ad interpellarla, non abbiamo la nostra consueta scheda introduttiva dottor Viganò perché in realtà abbiamo questi contributi di Fisher che sentiremo andando avanti nella nostra trasmissione, ma insomma io il tema dal quale vorrei partire è proprio questa situazione europea, perché c'è un dibattito che è stato sollevato in maniera abbastanza forte negli ultimi giorni e cioè il fatto che le borse stanno, io direi quasi trascurando, poi non so se per lei il termine è corretto, proprio la crisi degli stati sovrani dell'Eurozona nelle giornate in cui si è ridiscusso della riorganizzazione del patto di stabilità. L'Irlanda è in crisi enorme, fortemente indebitato questo paese, deve correre ai ripari a salvare questa grande banca. La Spagna perde la AAA, il Portogallo sta come sta, non meglio di queste altre economie appunto citate, eppure alla borsa di tutto questo sembra interessare molto poco. Secondo lei dobbiamo preoccuparci di questo o comunque è un buon segnale il fatto che il mercato azionario vada per conto suo rispetto invece alle condizioni finanziarie degli stati dell'Eurozona? Ma le notizie sono notizie che meritano grande attenzione da parte soprattutto degli specialisti. Sappiamo però fin dalla crisi della Grecia che in qualche modo la notizia ogni tanto vengono portate in prima pagina ma non ci insegnano niente veramente di nuovo. Se in realtà sappiamo che ci sono problemi strutturali nel debito sovrano di molti governi nell'Eurozona. Certo, il livello di deficit è elevato e è legato anche in taluni casi come quello dell'Irlanda a interventi legati a salvare il sistema bancario, non è l'unico paese che ha dovuto intervenire in modo importante e la grande sfida sarà trovare un equilibrio fra la necessità di rientrare da questo deficit e non deprimere troppo l'economia in un momento di rallentamento globale. L'Irlanda ovviamente è l'ultima notizia, è un paese che effettivamente quindi era già pesantemente intervenuto per limitare il disavanzo. Queste notizie rallentano l'economia, io viaggio abbastanza spesso in Irlanda anche da un punto di vista più tangibile, da un anno all'altro vedere scomparire tutte le gru che prima avevano popolavano tutto lo skyline di Dublino, è un modo molto tangibile di vedere questo rallentamento. Però ricordiamoci una cosa, che se da una parte va tenuta un'attenzione sul quadro direi macroeconomico di questi debiti sovrani, dall'altra parte le borse non sono fatte di quote di PIL di un paese, ma sono fatte da titoli azionari di aziende. E viva Dio, alcune di queste aziende, quelle che hanno il management più preparato, si sono riuscite a riposizionare in questo nuovo mondo post crisi finanziaria e in taluni casi hanno dato anche grosse soddisfazioni. Allora, qualche raccomandazione se posso forse per l'investitore. Sugli investitori, noi italiani siamo poi dei fruitori importanti del mercato obbligazionario. Questi temi dei paesi così satellitari europei vanno seguiti con attenzione e soprattutto richiedono una capacità di fare di costruire dei portafogli ben diversificati, in modo che l'investitore non si trovi, casomai ci fossero un po' di volatilità, a rischiare una parte significativa del proprio portafoglio. Dall'altra parte però danno anche delle opportunità, perché vediamo che gli spread, quando uno di questi paesi si trova il riflettore puntato, gli spread del suo debito diventano molto importanti e per chi ha bisogno di avere un po' di rendimento, non sono senz'altro solo i Bund tedeschi così schiacciati sul tasso minimo che possono dare le soddisfazioni e i ritorni attesi. Quindi bisogna anche sapere cogliere delle occasioni di breve dalle dislocazioni che vengono da queste notizie. Ecco, naturalmente poi non ci dimentichiamo mai di raccomandare che magari questo atteggiamento, che non dico sia di natura speculativa, ma sicuramente una capacità un po' più aggressiva, è appannaggio di voi investitori un po' più importanti, magari il piccolo risparmiatore è bene che si faccia consigliare. Se proprio vuole adottare questo atteggiamento di ricerca di extra rendimento in qualche parte, anche vicino a noi come l'Europa in questo caso, dica no. Ha proprio ragione, guardi, io rischio di essere di apparire in conflitto di interesse nel dirlo, ma effettivamente in questo scenario dove quella tranquillità che potevano dare come nel passato i titoli governativi permettevano anche di dire ma mi faccio magari un piccolo giardinetto di qualche titolo io fatto in casa, oggi la necessità è quella di monitorare molto attentamente l'evoluzione, di muoversi rapidamente, anche se io fossi invitato da lei quasi quotidianamente per seguire questa cosa non riusciremmo a dare in tempo utile le varie notizie al risparmiatore per un fai da te fatto bene. Allora, prego. No, mi scusi, la interrompo brutalmente perché in realtà stavo decidendo se magari mandare subito la nostra pausa, perché in realtà volevo anche cominciare a sentire un po' le considerazioni che abbiamo fatto con il vostro Peter Fischer, al quale ho chiesto, oltre a un giudizio sulla condizione europea, anche qual è la sua percezione del rischio paese per quello che riguarda l'Italia, perché ogni tanto ci tirano in ballo considerandoci appunto dei paesi a uno dei paesi appunto a più alto rischio in Europa. Io direi che possiamo andare in pausa, Roberto, a questo punto, poi ci sono già anche degli ascoltatori in coda che vogliono chiacchierare con lei questa mattina, e allora meteo, pubblicità e con Salva Danaio ritorniamo subito dopo. Oggi a Salva Danaio a colloquio con Andrea Viganò, responsabile BlackRock per l'Italia, la società leader mondiale negli investimenti, per capire un po' quello che sta succedendo, per capire un po' come chi deve farlo può orientarsi in questo panorama che ogni giorno ci appare sempre un po' più confuso, perché insomma abbiamo una crisi che ancora facciamo fatica a scrollarci di dosso, che ogni giorno ci presenta delle novità, magari qualche fronte ridimensiona un po' il suo livello di preoccupazione, qualcun altro invece si acuisce, e quindi per chi magari sta continuando a mantenere il proprio risparmio molto liquido ancora non sa bene che tipo di direzione dargli, imprimergli insomma il suo denaro. E allora cerchiamo di dare qualche indicazione concreta nel limite del possibile, naturalmente, perché poi come sapete bene ognuno deve anche gestire il proprio risparmio in stretta relazione alle proprie esigenze e le esigenze della propria famiglia. Allora, prima di sentire anche la domanda di alcuni ascoltatori, sentirei quello che ci ha detto un autore esponente di questo gruppo, Peter Fischer, che nei giorni scorsi è stato in Italia, a proposito del tema che stavamo affrontando nella prima parte della trasmissione, cioè il momento molto delicato che sta vivendo l'Europa e soprattutto alcuni stati. In questi giorni sotto scacco da parte dei mercati c'è stata l'Irlanda, in primavera c'è stata la Grecia, si teme anche per il Portogallo e per la Spagna. Peter Fischer, abbiamo chiesto se ritiene che ci sia la possibilità di un default di uno Stato sovrano europeo, quali altre conseguenze potrà avere tutta questa attenzione e qual è soprattutto tutto la sua percezione del rischio paese per quello che riguarda l'Italia. Credo che l'Italia si trovi al centro dell'Europa, nel senso che ci sono paesi che sono finanziariamente più deboli e altri più forti. Ecco perché dico che la situazione italiana si colloca in qualche parte nel mezzo. L'Italia ha avuto il vantaggio di avere un sistema bancario più forte e solido ed è giunta nella fase della crisi meno esposta al rischio di una bolla immobiliare come è accaduto altrove. Dall'altro lato però vi è entrata con un livello di debito più elevato. Per quanto riguarda l'Europa, nel suo insieme direi che è quasi una sfida valutarla, nel senso che anche per noi investitori non è facile farlo, perché ci sono aspetti molto differenti. In particolare il sistema bancario dei vari paesi è molto diverso. Alcuni paesi sono molto dipendenti dal proprio sistema bancario e i governi sono dovuti intervenire in maniera esplicita per supportarlo. Altri paesi hanno avuto problemi con le banche, ma i governi sono intervenuti in maniera meno massiccia. Gli investitori quindi devono stare attenti e domandarsi se un governo sia ancora disposto a fornire tanta liquidità al proprio sistema bancario, oppure se il sistema governativo e politico del paese, stanco di sostenere le proprie banche, decida di non farlo più. Dottor Viganò, c'è un ascoltatore, Antonio, che ci scrive al 349-238-6666, proprio alludendo a questa tentazione che molti hanno e che hanno espresso anche chiaramente negli ultimi mesi di considerare il paese Italia, l'Italia come un paese ad alto rischio. Antonio scrive: perché i titoli di Stato italiani rendono così poco visto il rischio che in molti appunto attribuiscono al nostro paese? Viganò. La risposta è semplice, i mercati sono molto efficienti, quindi prezzano il rischio percepito di ogni titolo, anche governativo, nel rendimento. Quindi, come diceva anche Peter Fischer, l'Italia, pur molto indebitata, arrivata all'inizio di questa crisi molto indebitata, non sta soffrendo alcune delle problematiche che possono essere quelle della Spagna piuttosto che dell'Irlanda per una bolla immobiliare, né tantomeno il fatto di dover aver messo mano alla, diciamo, al patrimonio nazionale per salvare le banche, come è successo in paesi del nord Europa, nella stessa Inghilterra e oggi ancora per l'Irlanda. Quindi due aspetti molto positivi per quanto ci riguarda, di una struttura molto solida, di un settore anche dei privati, quelle delle famiglie molto poco indebitate, proprio per la cultura nostra ha poco da affidarsi a credito, che invece tocca tanti altri paesi. Infatti sappiamo anche che nella discussione della revisione delle regole del patto di stabilità, infatti, quanto l'Italia ci teneva a nei nuovi parametri, appunto, proprio a far considerare il tema dell'indebitamento privato, no? Viganò. Esattamente, beneficiamo di un patrimonio importante, il nostro, che è quello proprio della capacità di risparmiare delle famiglie, che nel contesto di tematiche macroeconomiche per guardare la sostenibilità dei bilanci dei vari paesi è un fattore importante, quindi un piccolo più per l'Italia e quindi dei titoli che rendono forse un po' di meno di quelli più rischiosi. Allora, molti ascoltatori ci stanno chiedendo anche così di indicare qualche prospettiva sulla situazione americana, siccome vorremmo anche introdurre il tema delle valute e quindi di questa forte debolezza del dollaro. Prima di sentire Gianfranco da Pordenone, che è un nostro ascoltatore pronto con una domanda, sentirei invece proprio quello che ci ha detto sulla situazione americana Peter Fischer. Gli abbiamo chiesto proprio in maniera molto netta: si intravede la luce alla fine di questo tunnel? Ritengo che il peggio della crisi sia passato. Tuttavia ci vorrà ancora molto tempo affinché il sistema bancario possa tornare completamente in salute. L'economia del paese si è indebolita molto, più di quanto si pensi. C'è stata una ripresa all'inizio di quest'anno. Molti ritengono che l'economia continuerà a rafforzarsi. Noi di BlackRock, invece, prevediamo un ulteriore indebolimento e finora le nostre previsioni si sono rivelate corrette. Per quanto riguarda la borsa, credo che nei prossimi mesi il mercato potrebbe sorprendere con un rialzo, perché ha già incorporato la fase più difficile dell'economia. La crisi che abbiamo vissuto è stata bancaria, differente dalle crisi economiche cicliche. Abbiamo decisamente creato più credito di quanto avessimo bisogno. Molti proprietari di case sono ancora indebitati. Impiegheremo molti anni per sistemare le cose. Ogni venerdì sera sentiamo di banche più o meno piccole che vengono chiuse. Ci siamo abituati. Ho paura che questo processo possa proseguire ancora per un anno o forse più. Dunque, ricapitolando, il peggio della crisi è passato. L'economia si è indebolita e si riprenderà molto gradualmente e la gente avvertirà fin troppo questa gradualità. Viganò, allora, una notizia buona, una un po' meno buona tra quelle che abbiamo sentito appunto da Peter Fischer. Voi di BlackRock, visto che lui ha anche detto, noi ci abbiamo sempre azzeccato rispetto a quello che è successo appunto nei mesi passati, prevediamo un indebolimento ulteriore per quello che riguarda proprio il contesto macroeconomico generale, anche se la borsa invece avrebbe già incorporato, insomma, tutto il peggio che potrebbe arrivare, quindi potrebbe sorprendere con un rialzo. Insomma, ci spiega un po' meglio questa teoria, non perché non sia autorevole quella di Fischer, solo perché naturalmente intervista già registrata, quindi noi l'abbiamo qui a portata di mano e ci piacerebbe poi concretamente, magari nelle scelte di risparmio, come questa indicazione si potrebbe tradurre per chi ci ascolta. Senz'altro, il tema che ha rappresentato Peter è semplicemente legato al fatto che lo scenario macroeconomico, come l'ha detto lui, il peggio alle spalle e sarà una ripresa graduale, anche forse talvolta fin troppo lenta, ma graduale. Però ritorno al tema presentato prima. Quando poi noi ci troviamo a investire i nostri risparmi, non stiamo comprando quote del PIL di un paese o dell'eurozona, ma stiamo comprando dei titoli azionari in borsa piuttosto che titoli obbligazionari e sempre di più non tanto e solo governativi, perché abbiamo appena detto che forse sono un po' più rischiosi quanto erano nel passato, ma anche titoli obbligazionari corporate, quindi emessi da aziende. E tante di queste aziende hanno lavorato bene anche nel corso della crisi, hanno ridisegnato il loro modello di business stanno dando grandi, grandissime soddisfazioni ai loro azionisti con aumenti della redditività, aumenti dei dividendi, e questi tipi sono destinati e hanno, sono già cresciuti e sono destinati ancora a crescere. Quindi è importante, secondo me, che quando come Peter ci sono i macroeconomisti, i monetaristi che ci rappresentano lo scenario macroeconomico, lo si tenga in conto, però ricordiamoci che poi investiamo in titoli di singole aziende e lì ci possono essere delle ottime soddisfazioni. Ecco, a proposito di singole aziende, io peraltro questo lo ricordo, poi per non metterla in difficoltà non lo chiedo anche a lei, a Peter Fischer ho tentato di fare la domanda anche su quale fosse la considerazione sulle vicende di Unicredit, visto che BlackRock ha una quota di circa il 4% di capitale di Piazza Cordusio. Detto questo, però, mi interessa capire, dottor Vigano, anche alla luce della considerazione che Peter Fischer ha fatto sul sistema bancario internazionale, che non mi pare considerare ancora fuori completamente dalle secche, voi che tipo di esposizione avete su questo comparto, che tipo di considerazione avete su questo comparto? Anche lì è il caso di fare accuratissima selezione, oppure dobbiamo ancora per il settore bancario fare di tutta l'erba un fascio? Guardi, prima di tutto lei ha citato effettivamente l'azienda, nel massimo vista la nostra dimensione, noi siamo ormai azionisti in ragione di un 4-5-6% di una buona parte dei titoli, sia di aziende di credito e in generale di titoli di borsa. Direi sul settore dei finanziari in modo generale noi abbiamo un sottopeso, quindi sono meno rappresentati nei nostri portafogli di quanto prevederebbe il portafoglio standard, e il motivo è il fatto che ci sono alcuni fra gli operatori che presentano degli aspetti di debolezza e di necessità di rilavorare di nuovo sul loro business prima che possano dare convincimento per noi per investire. Ci sono altri settori, per esempio, come non so, l'energia, l'healthcare, la tecnologia, che invece ci danno senz'altro più convinzione in termini di opportunità a breve termine. All'interno però del settore ci sono aziende più o meno meritevoli, talune sono molto sane e anche al di là di alcuni cambiamenti recenti hanno delle ottime prospettive di crescita, quindi non farei di tutto un'erba un fascio, però presenterei così un tema di attenzione sul settore nel suo complesso, c'è ancora lavoro per far uscire così il settore finanziario dai postumi di questa crisi. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno signora Debora, a lei e ai suoi illustri ospiti. Sì. Volevo chiedere appunto al dottor Vigano cosa pensa della mia visione del mercato mediante la quale costruisco i portafogli dei miei clienti in quanto promotore finanziario. Sì, ci dica. Praticamente io prevedo probabili imminenti interventi di quantitative easing in America che dovrebbero indebolire ulteriormente il dollaro rispetto all'euro fino a portarlo a 1,40-1,45 da qui a fine anno. Prevedo un rafforzamento dell'oro e delle materie prime in genere, con i tassi che dovrebbero rimanere bassi ancora per parecchio tempo, almeno fino a tutto il 2011, con inflazione che non dovrebbe far paura. Questo a mio avviso dovrebbe far salire le borse, con i titoli small cap che da qualche mese a questa parte preferisco alle large cap, e i paesi emergenti, specie quelli di frontiera, preferisco ai mercati sviluppati. Grazie Gianfranco. Allora, io per rispondere a tutti i punti credo che dovremo mantenere ancora i nostri microfoni Andrea Vigano per le prossime 3 ore. No, naturalmente sto scherzando. Gianfranco, dottor Vigano, io le spiego. Quando veniva a trovarci in trasmissione a Salvadanai il suo predecessore, Corrado Caironi, era molto sempre interessato a fare una considerazione con lui sulla gestione del proprio portafoglio per i propri clienti, per cui ovviamente oggi non poteva farsi mancare l'occasione. Lo conosciamo molto bene, questo è un ascoltatore molto affezionato e siamo molto contenti. Ha capito, Vigano? Sì, no, nessun problema. Infatti era solamente per raccontare anche a volte questi aspetti di colore che magari sono curiosi per chi ci ascolta. 800 24 00 24, adesso andiamo a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, poi analizziamo il portafoglio del nostro ascoltatore, ma sentiamo anche altre considerazioni di Peter Fischer sul tema delle valute, che sono delle riflessioni molto interessanti. A tra poco. Allora, Andrea Vigano, BlackRock, stiamo tentando di capire se la ricetta fornita ai clienti di Gianfranco da Pordenone possa essere corretta, quantomeno in una prospettiva di medio termine. Lui dice, insomma, che vede degli andamenti abbastanza precisi sul mercato. Io mi soffermerei solo su un paio, perché tutti non riusciremo sicuramente ad analizzarli. Secondo lei il dollaro può spingersi, anzi l'euro può spingersi fino a schiacciare il dollaro fino a 1,45? E poi Gianfranco dice, io preferisco ancora l'investimento in small cap piuttosto che in large cap, quindi titoli e società a media capitalizzazione piuttosto che le big della borsa. Insomma, quali sono le sue riflessioni su questi due punti? Io direi, allora, prima di tutto sul dollaro è ragionevole, anche noi abbiamo una visione di temporanea possibile ulteriore rafforzamento dell'euro, vista la debolezza americana, però di breve termine e quindi con una corsa limitata, probabilmente 1,40 è ragionevole, dopo il quale però vediamo condizione anche sulla base di quello che abbiamo discusso per l'eurozona, perché la cosa ritorna indietro. Allora, se io mi posso permettere, più che una posizione così tattica, di andare a prendere scommesse importanti sulla valuta americana, direi qualcosa di un po' più lungo termine, e che senz'altro è un modo che anima anche me quando costruisco i portafogli e i risparmi della mia famiglia, e cioè che secondo me il risparmiatore, andando avanti, non può più permettersi, anche quello che ha i suoi obiettivi tutti in euro, di avere solo un portafoglio fatto in euro, ma miscelare un po' di valute all'interno del proprio portafoglio oggi è una cosa sana. Non so se consigliare a tutti di mettersi a speculare sulle valute, perché è una cosa sulla quale ci si può prendere qualche abbaglio, viceversa avere un portafoglio che ha chiaramente una parte importante di euro, ma qualcosina di dollaro comunque sempre presente, e al limite anche sulla parte del debito, dell'obbligazionario, qualcosina di valute di mercati emergenti, perché hanno dato ottime soddisfazioni e sono ancora in grado di darle. Adesso magari il tema dei mercati emergenti lo affrontiamo fra qualche istante, perché c'è anche un ascoltatore che vorrebbe esprimerci appunto proprio una sua considerazione su questo. Rimando a dopo anche il discorso sulla differenza fra società piccola capitalizzazione piuttosto che le più grandi, perché invece sul tema del nuovo riequilibrio che potrebbe disegnarsi su scala globale nel mercato valutario, abbiamo chiesto appunto un commento a Peter Fischer. Perché? Perché ci sono state tante notizie che hanno movimentato il settore non poco negli ultimi tempi. Siamo partiti dal sorpasso cinese sul Giappone, il Giappone che non vuole frenare la forza della sua divisa, lo yuan, la Cina che non vuole rivalutare la sua, c'è stato questo forte braccio di ferro che è in corso anche con il congresso americano. Insomma, che nuovo equilibrio si sta disegnando? Sentiamo un po' cosa ci ha detto Fischer su questo. Generalmente i paesi con rapidi tassi di crescita vedono la loro moneta svalutarsi rispetto a quella di paesi con un tasso di crescita più lento. Questo è un driver importante dei mercati valutari, anche se non il solo. Possiamo prevedere un deprezzamento delle valute asiatiche nei prossimi anni perché il tasso di crescita di questi paesi sarà più rapido rispetto a quello di paesi dell'Europa occidentali e del Nord America. Ritengo che una cosa alla quale dovremmo abituarci è che non deve essere denominato tutto in dollari. Se ad esempio il renminbi cinese cresce, questo non significa per forza che abbiamo un problema di dollaro debole, ma significa che dobbiamo aspettare e valutare il renminbi in relazione all'euro, alla sterlina, al peso, al dollaro canadese o ad altre valute. Prendiamo l'esempio del Giappone. L'economia del paese si è indebolita molto, ma la valuta continua a rafforzarsi. Perché accade? Se hai deflazione nel paese, significa che c'è meno carta in circolazione. Questo pezzo di carta consentirà di comprare più beni l'anno prossimo rispetto a quanti ne faceva comprare l'anno scorso. Una teoria del mercato delle valute è che paesi con rapidi tassi di crescita vedono la loro moneta svalutarsi rispetto a quella di paesi con un tasso di crescita più debole. Ma la deflazione cambia questa prospettiva. In paesi dove c'è deflazione, come in Giappone, è difficile che la moneta si indebolisca perché la valuta comprerà più beni l'anno prossimo rispetto a quanto non lo faccia quest'anno. Questo è quanto sta accadendo con lo yen. Le autorità giapponesi sono frustrate perché da un lato vedono quanto è debole l'economia del paese e dall'altro il rafforzamento della valuta. Quindi sono intervenuti per cercare di indebolirla. Hanno in sostanza intrapreso una politica opposta a quella della Cina. Quest'ultima ha contenuto l'apprezzamento troppo rapido della valuta, che poi in un certo senso è la stessa cosa. I cinesi non vogliono avere una valuta molto forte, la vogliono rafforzare, ma gradualmente. Hold back the strength of their currencies. Andrea Viganò, insomma, quello che Peter Fischer ci ha descritto è un po' il movimento di un cane che si morde la coda. Mi sembra una situazione che è destinata a rimanere abbastanza immobile su queste posizioni, sia da parte giapponese che cinese, ancora a lungo. Io ci metto anche l'altro tassello che non mi sembra irrilevante, comunque, a prescindere, diciamo, dal braccio di ferro politico che si è fatto in questi giorni con la discussione del congresso americano di imporre alla Cina un aumento della valutazione della propria divisa. Fino a quando la Cina continuerà a comprare tutti quanti i titoli di Stato americani, io credo che questo dialogo non potrà andare molto avanti. Senz'altro, ma vede, la cosa che bisogna ricordare è che le economie emergenti sono e devono essere il traino dell'economia a livello globale, stimolando l'export e stimolandolo in un modo che può beneficiare anche noi. Pensi a come la Germania ha beneficiato a livello della crescita del suo PIL dell'indebolimento dell'euro. Se però le valute dei paesi sviluppati, in particolare il dollaro, rimangono sopravvalutate rispetto a quelle dei paesi emergenti, le loro economie fanno fatica poi a beneficiare dell'export. Io sul tema poi Cina e Stati Uniti direi che sono comunque anche scaramucce fra grandi potenze, attorno alle quali bisogna ricordarci si sono temi anche un po' più politici, tattici. Ci sono presto le elezioni midterm negli Stati Uniti, Obama ha qualche punto di attenzione a livello del suo livello di accettazione dalla da parte consenso popolo americano, non quindi... non troppo accentuato in questo momento. Esatto, sì. E quindi far vedere un po' i muscoli forse può essere qualcosa che aiuta anche in quello. Quali sono le sue economie emergenti in questo momento? Preferite. Quelle che ci piacciono, ma sì. Direi, guardi, sugli emergenti siamo veramente ancora molto positivi, sia per la parte asiatica ex Giappone che per i mercati latinoamericani che per la stessa Europa emergente, sulla quale avevamo avuto per un qualche tempo una posizione un po' meno entusiastica, per cui senz'altro ormai sono, per chi ha degli obiettivi di lungo termine, devono diventare una parte importante del portafoglio, perché sta diventando il motore del mondo, della crescita globale, e non potrà che dare soddisfazioni. Mi piace menzionarli anche però per la parte obbligazionaria, perché in un portafoglio che ho già detto prima deve diventare più diversificato sull'obbligazionario, non può più essere sui governativi che sono, come abbiamo detto, ormai rischiosi. Deve essere ben strutturato con anche del corporate, della yield, e c'è questo tema dei mercati emergenti in moneta locale che ha dato già buone soddisfazioni e continuerà a darle. Da quel punto di vista forse affidarsi a prodotti gestiti professionalmente è un buon consiglio, perché immagino che per il risparmiatore, il padre di famiglia, non sia scontatissimo muoversi all'interno di titoli mai conosciuti in prima. Maniera troppo indipendente. Small cap o large cap? Dica no. Guardi, su quello ad oggi ho ascoltato con attenzione i commenti del collega e gli lascio prendere la sua buona scommessa, come è giusto che sia. Noi siamo un po' più neutrali da quel punto di vista. Mi è piaciuto viceversa molto il tema dei metalli preziosi, perché anche con l'oro a $1,300 pensiamo che c'è ancora spazio e ci sono proprio degli squilibri fra domanda e offerta che continueranno a sostenere questa classe d'attivo. Un ascoltatore chiede, ci racconta che sta avendo delle grosse soddisfazioni. Questo è un tema che non siamo mai riusciti ad approfondire in maniera estremamente dettagliata, Salvadanaio, prometto che ci penseremo nei prossimi giorni. Lui dice: sulle obbligazioni perpetue delle banche, cosa ne pensa il vostro ospite? Viganò. Sono senz'altro un titolo interessante, anche se ovviamente essendo così a durata così limitata rappresentano anche un rischio, quindi interessante per chi le ha studiate, le conosce, poterci allocare una parte del portafoglio, ma sempre con grande attenzione, quindi nell'ottica di una grande diversificazione. Stiamo chiudendo, come vede il panorama del risparmio italiano, Andrea Viganò di BlackRock? Ma io direi tutto sommato bene, perché allora abbiamo già detto che gli italiani da quel punto di vista sono sempre stati dei grandi risparmiatori e continuano ad esserlo. Hanno riniziato a comprare anche risparmio gestito in modo ben diversificato. Quest'anno vediamo molto molta attenzione al tema obbligazionario e dei prodotti bilanciati, dove si affidano a professionisti per la costruzione di portafogli più bilanciati, e sono molto ottimista. Il nostro impegno anche a titolo di BlackRock è quello di assicurarci che la qualità dei prodotti che metteremo a loro disposizione sia all'altezza delle loro attese e soprattutto del duro lavoro che in genere ha generato questi risparmi. Esattamente, bravissimo, infatti volevo anche io concludere con questa postilla, la ringrazio per averlo fatto al posto mio. Viganò, grazie molte, ci risentiamo presto naturalmente, grazie, buon lavoro. Grazie ad Andrea Viganò, responsabile di BlackRock per l'Italia, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti e i suoi gusti musicali in assistenza tecnica. Noi ci risentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti, anzi noi ci sentiamo stasera a Focus Economia, vi do questa bella notizia, allora appuntamento alle 17, buon pomeriggio.